sigla di Carosello per tornare in onda all'800 24 00 24, perché c'è un grande concorso a premi per questa sera e forse anche nei prossimi giorni. E perché abbiamo scelto la sigla di Carosello? Perché vorrei che vi esercitaste su questo, con premio naturalmente finale, quello di descrivere questo sistema Carosello, questa truffa Carosello, che riguarda anche Fastweb, eccetera. Come funziona? In premio una maglietta di Radio 24 e un kit elettorale di Tinto Brass. Il kit elettorale di Tinto Brass è il seguente. Il mio kit elettorale consiste nel libretto L'elogio del culo, una cartolina con i due manifesti, quello Meglio un culo che una faccia da culo e quell'altro Eros è liberazione, e un volantino in cui pongo il mio credo politico. Ci mettiamo anche due preservativi firmati, che ne so. No, quindi non c'è dentro. Io poi quando faccio i comizi proietto il mio corto, che si chiama Hotel Courbet, e mentre parlo, mentre spiego, c'è una musichetta relax che viene accompagnata dalle movenze di una mia attrice che si muove al ritmo di questa musichetta relax. Quindi ci mettiamo anche CD e DVD, eh? Sì, CD e DVD, bravo, CD e DVD. DVD è Hotel Courbet e CD relax. Questo è il kit elettorale di Tinto Brass, che insieme a una maglietta di Radio 24 verrà regalata a chi vince questo gioco, a chi vince questo concorso. Cioè, riuscite a descrivere voi? Io non ci ho capito niente in 3 giorni, come funziona questo sistema Carosello? L'abbiamo chiesto per esempio ad alcuni studenti del corso di marketing qui dal Sole 24 Ore, insomma sono andati così così, sentite. No. Sì, io ne ho sentito parlare, l'ho letto stamattina. Grosso modo la truffa di Fastweb era, cioè che non era di Fastweb. No, cos'è esattamente il Carosello? No, non so spiegare. Ma non lo so, magari è riferito al programma che c'era. Boh, non... Ignoro. Riguardava il riciclaggio di denaro che avviene tramite le phone card, delle carte telefoniche che ti permettono di navigare su internet, sono delle prepagate. Per andare sui siti porno prevalentemente, e tramite passaggi di queste carte da una società all'altra all'estero si arrivava a una compensazione di debiti crediti, per cui delle somme di denaro sparivano.